Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona, eccoci qua. Ciao Federico, ciao a tutte e tutti. I titoli. Abbiamo intervistato il replicante di Blade Runner. E poi con Ulisse, che è apparso al premio Balzan 2016. E poi una vernice innovativa per proteggere gli scafi delle navi. Avremo un dizionario mondiale degli emoji? Forse sì, e si è già incominciato. Partiamo. Via! Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Questa era la voce, ma del doppiatore di Rutger Hauer, che nel film Blade Runner ha solo 4 anni di vita e stanno finendo, invece lui è continuato. E tu, Simona, l'hai incontrato, no? Sì, l'ho incontrato a Trieste perché era l'ospite d'onore dell'ultima edizione del Festival di Fantascienza, che gli ha conferito il premio Urania d'Argento alla carriera, perché insomma Rutger Hauer ormai è considerato un'icona della fantascienza. Cosa gli hai chiesto come prima domanda? Beh, a proposito di questo monologo che ha segnato la storia del cinema, gli ho chiesto se effettivamente c'era o non c'era nella sceneggiatura. Originariamente nella sceneggiatura questo monologo era molto lungo, sembrava l'ultimo atto di un'opera. Un crescendo forse troppo drammatico. Quindi ne ho parlato con Ridley. In fondo abbiamo già avuto dei momenti molto drammatici, che sono le precedenti morti dei replicanti, crudeli, poetiche. Allora per quest'ultima parte abbiamo deciso di semplificare e di tutto quello che era stato scritto di mantenere solo l'essenziale, le parti poetiche più evocative. Poche parole che in fondo dicevano anche altre cose che nel film venivano solo suggerite. E così, tenendo solamente quei pochi secondi, siamo riusciti a creare l'effetto che speravamo. Quindi semplificato e reso indimenticabile. E sentite un episodio che Rutger ricorda con particolare emozione, con molto piacere. Tutto il film è una sorta di preparazione alla mia morte, che sorprende, perché non avviene come il pubblico si sarebbe aspettato. Non avviene in una grande scena di azione, ma lentamente mi spengo. Il ricordo più bello di tutta la lavorazione è proprio la scena con la colomba. Io avevo avuto questa brillante idea di tenere la piccola colomba in mano mentre recitavo il monologo sul senso della vita. Poi questa colomba doveva, come effettivamente si vede alla fine del film, spiccare il volo. Ma, piccolo problema, pioveva sul set e tra pioggia artificiale e freddo, quando è arrivato il momento della mia morte e la colomba doveva volare, non è successo. La colomba, che forse si era un po' infreddolita e un po' bagnata, prima non si muoveva e alla fine, quando si è mossa, non ha fatto quel balzo che ci aspettavamo. Ha iniziato a saltellare sul set e allora abbiamo dovuto usare quella magia del cinema che è il montaggio. Insomma, anche se è una scena fondamentale, bellissima ed evocativa, ogni volta che la vedo mi viene da ridere. La cosa singolare che dice Hauer è che probabilmente nel romanzo erano 6-7 pagine quella scena finale, loro invece cinematograficamente le hanno accorciate e così è diventata un'icona della fantascienza e non solo. E tra l'altro, per conoscere tutti i segreti della lavorazione del film, Rutger consiglia la visione del documentario che è stato realizzato 25 anni dopo, si chiama Dangerous Days, e lui dice che è interessante quasi quanto il film stesso. Andate a vederlo, lo trovate in rete. Restiamo in un clima epico con il premio Balzan 2016. Piero Boitani l'ha vinto insieme anche ad altri. Boitani è un storico ricercatore di letteratura comparata, cioè lui prende un tema che è magari emerso 3.000 anni fa e vede come nella narrazione è arrivato fino ad oggi. E lui è famoso per una grande ricerca di questo tipo su Ulisse, e infatti la domanda che gli ho fatto è: ma insomma, questo paradigma di Ulisse, che sembra essere la sintesi di tutte le caratteristiche umane, è vero? Vale sempre? Sfuggire a Ulisse è proprio molto molto difficile, perché Ulisse, che nell'Iliade è anche un grande guerriero, poi diventa l'uomo che distrugge Troia, ma con l'astuzia, non con la forza, quindi è simbolo dell'intelligenza, diciamo, ed è anche, poi diventa inevitabilmente il ricercatore, quello che va alla ricerca della verità, appunto, nella scienza, nella letteratura, nella filosofia. Addirittura ci sono persone che dicono più tardi, no, è simbolo della storia. Polibio lo prende come simbolo della storiografia. Eustazio dice è simbolo del ricercatore delle stelle, è lo scienziato delle stelle, insomma. Poi è l'antenato nella storia proprio degli esploratori occidentali, Vespucci, Sarmiento de Gamboa, tutti citano Ulisse come il loro predecessore, l'Ulisse di Dante in quel caso. L'Ulisse omerico è molto diverso da quello dantesco, anche se hanno dei punti in comune, perché anche l'Ulisse omerico non si accontenta di vedere il paese da lontano, quando vede il paese dei ciclopi lui vuole andare a vedere chi c'è dentro, chi ci abita, e poi gli capita Polifemo, poverino, ma insomma, no? Beh, Simona, dopo tanta epicità siamo arrivati al traffico. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ah, se l'avesse avuta Ulisse, eh? Federico, ti riferisci alla nuova vernice antivegetativa messa a punto dall'Istituto per lo Studio dei Materiali, esatto, nanostrutturati del CNR di Palermo. Esatto, che sono qui con noi stasera. Sì, è qui con noi Mario Pagliaro, appunto chimico dell'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati di Palermo, che ha messo appunto una nuova vernice che ostacola, fa sì insomma che alghe e altri microorganismi marini non colonizzino gli scafi delle navi, rallentandole, quindi facendo consumare più carburante e quindi inquinando di più. Che è un grosso problema, no, Pagliaro? È un grosso problema, infatti ogni anno nel mondo si consumano decine di migliaia di tonnellate di vernici antivegetative che vengono applicate su tutte le imbarcazioni, quelle più grandi, cioè le navi, ma anche quelle più piccole, quelle da diporto. Le vernici antivegetative che attualmente vengono usate, però, che cosa causano? Insomma, che problemi innescano? Inquinamento? Inquinamento perché circa il 90% sono composte da delle vernici, appunto, che contengono al loro interno una sostanza biocida che è il rame. Perché queste vernici vengono spalmate regolarmente sugli scafi, no? Vengono spalmate regolarmente sugli scafi perché se non lo si fa una nave può arrivare a consumare il 40% in più di carburante, quindi di fatto vengono applicate, poi all'interno dei porti rilasciano lentamente il rame che causa una serie di problemi ambientali, per cui negli ultimi anni sono entrati sul mercato una serie di vernici alternative che non contengono rame e che oggi coprono all'incirca il 10% del mercato. Praticamente si riferisce alle vernici a base di siliconi, però quindi la vostra vernice perché è un'alternativa valida rispetto a quelle già esistenti? È un'alternativa valida rispetto a quelle esistenti perché risolve un problema storico delle vernici appunto a base di elastomeri, cioè siliconi, che è quello di funzionare sostanzialmente quando l'imbarcazione è ferma in porto, in quel caso le incrostazioni si attaccano facilmente anche su queste nuove vernici elastomeriche. Perché? Perché si forma grazie all'azione della radiazione solare una sostanza che si chiama acqua ossigenata, che funziona da potente biocide, che è completamente atossica. E quindi l'acqua ossigenata impedisce proprio la formazione di questi microorganismi. Quindi, se abbiamo capito bene, la vostra nuova vernice è più ecologica rispetto a quelle a base di rame e più efficace rispetto a quelle a base di siliconi. Specialmente vorrebbe essere efficace come le ultimissime che sono entrate sul mercato, che sono dei siliconi estremamente, estremamente avanzati. In questo caso l'acqua ossigenata si decompone in acqua e ossigeno, che sono entrambe completamente atossiche, sono naturalmente presenti nell'acqua del mare. Pagliaro, è già a disposizione? È già funzionante? Insomma, la si può prendere questa vernice? Sì. La vernice può essere prodotta da chiunque perché abbiamo pubblicato i risultati in regime di Open Innovation, quindi aziende o altri gruppi di ricerca sono liberi di migliorarlo, ottimizzarla secondo le loro esigenze. Naturalmente noi stiamo continuando a lavorarci insieme agli amici e colleghi del Masdar Institute da Abu Dhabi, dove abbiamo testato questa vernice. Lei forse saprà, per concludere, che c'è un canale a New York, adesso è un po' meno, talmente inquinato che per liberarsi dai molluschi vari le navi andavano dentro il canale perché era così aggressivo che lo pulivano in quel modo. Quindi proprio il rovesciamento del problema. Grazie Pagliaro, buon lavoro. Grazie Mario Pagliaro. Grazie a voi e buona serata. Se andrete al nostro blog, ascoltatori e ascoltatrici, vedrete l'immagine della home page dell'Oxford Dictionary. Cosa c'è su? La faccina che ride fino alle lacrime, perché è l'emoji più utilizzato a livello mondiale, a livello globale, tanto che appunto il dizionario inglese l'ha dichiarata parola dell'anno nel 2015. Più utilizzata a livello globale però significa che ovunque venga interpretata allo stesso modo? Non è detto. E per parlare di questo con noi stasera c'è Ioanna Monti. Buonasera Monti. Buonasera. Buonasera a voi. Lei è docente di linguistica computazionale e didattica delle lingue all'Università L'Orientale di Napoli. Allora, lei con un team di ricerca che non è poi solo italiano, state facendo un lavoro su tutti gli emoji, no? Che sono quanti, Monti, arrivati ad oggi? Ad oggi sono oltre 1700 emoji. E sono costantemente aggiornati? Sì, sono costantemente aggiornati. Ogni anno vengono introdotti nuovi emoji. Voi state facendo una ricerca per capire, come diceva poco fa Simona, la faccina che piange, il pollice suo e gli altri mille passa, sono sempre usati allo stesso modo in tutti i paesi, in tutte le etnie? Dunque sì, insieme a dei colleghi sia italiani, in particolare Francesca Chiuferoli dell'Università di Macerata, sia Federico Sangati e un partner internazionale che è Martin Benjamin, stiamo facendo uno studio sull'uso degli emoji attraverso l'utilizzo di un bot che si chiama World Emoji Bot. Cioè, cos'è questo bot? Bot è praticamente un programma che è stato realizzato per la piattaforma Telegram che consente di consultare il set degli emoji, vedere questi emoji come sono stati descritti, standardizzati, ma allo stesso tempo consente di aggiornare e aggiungere delle descrizioni agli emoji. Quindi diciamo sostanzialmente ci aiuta a capire come questi emoji vengono interpretati dagli utenti, e questo per 72 lingue nel mondo, e anche queste poi dopo diciamo le stiamo aggiornando man mano che ci vengono richieste nuove lingue. Ma Ioanna Monti, praticamente possiamo dire che paese che vai, emoji che trovi? In un certo senso sì, sono stati fatti degli studi appunto sull'uso degli emoji nei diversi paesi e si è diciamo scoperto che alcuni paesi preferiscono alcuni emoji rispetto ad altri. Faccio un esempio, i paesi sudamericani preferiscono l'emoji con le note musicali. La Francia invece preferisce l'emoji con il cuore sentimentale, più passionale. Ma sì, c'è anche una differenza, nel senso che noi magari per esprimere una certa felicità mettiamo quattro faccine sorridenti e invece, che ne so, gli ecuadoregni ne mettono 20? Cioè c'è più enfasi? Ci sono differenze culturali. Appunto come queste che abbiamo come queste che ho menzionato prima, ci possono essere differenze d'uso sia a livello di una stessa comunità linguistica che a livello di appunto comunità linguistiche diverse, ci possono essere differenze di rappresentazione tra piattaforme diverse. Ci faccia qualche esempio. Ci sono emoji che possono assumere anche un uso figurato. Cioè? La pesca che rappresenta per esempio il fondoschiena, per dire. E quindi questo non c'è chiaro, com'è la pesca che rappresenta il fondoschiena, cioè? Sì, infatti, cioè, in senso figurato rappresenta il fondoschiena e non tutti magari sono consapevoli di questo uso figurato, in particolar modo questo è un uso figurato appunto deriva proprio dalla forma della pesca. Diciamo. Ah, la pesca è il frutto, certo, che vuol dire esatto. Il fondoschiena. Ma poi, mi scusi Monti, ma lei praticamente dice che c'è anche una forma un po' dialettale, no? Per alcuni la pesca è quella roba lì, per altri una pesca e basta. Sì, diciamo che vengono appunto attribuiti anche dei significati figurati, dei sensi figurati, ecco appunto agli emoji. Questo è un esempio. Un altro esempio di differenza è in Giappone gli emoji vengono utilizzati principalmente per fini decorativi, quindi per abbellire un discorso, mentre negli Stati Uniti vengono usati con riferimento all'oggetto che rappresentano, quindi è un uso diretto degli emoji. Più interni al messaggio. Ma Ioanna Monti, visto che nelle nostre comunicazioni digitali utilizziamo sempre più questi emoji, per non fare confusione, voi state mettendo a punto un dizionario? Sì, esatto, è proprio il progetto che stiamo realizzando con questi colleghi. Abbiamo fatto un primo esperimento con l'italiano, insieme alla collega appunto Francesca Chiusaroli, di realizzazione di un dizionario dell'italiano, tant'è vero che questo esperimento è stato anche, come devo dire, accolto come emoji italiano, con una voce emoji italiano nella Treccani. Ah, c'è già un primo piccolo dizionario emoji italiano. Sì, diciamo, emoji italiano è la lingua italiana in emoji che è stata utilizzata per tradurre Pinocchio in emoji. Ah. E questo è un esperimento che è stato condotto su Twitter a cui ha collaborato la comunità di scritture brevi. Qui, scusi, c'è una differenza, perché non è più l'emoji come segno di corredo, ma qui si sostituisce a un linguaggio scritto, a una parola. Sì, esatto, è un esperimento per capire se gli emoji potevano funzionare da lingua. Ovviamente ci siamo scontrati subito con una serie di problematiche, cioè che in realtà gli emoji non attualmente presenti nel set di caratteri appunto ovviamente non rappresentano tutti i significati possibili di una lingua naturale. E quindi abbiamo, come devo dire, assistito in diretta a un esperimento di creatività linguistica, perché i traduttori appunto di questa comunità di scritture brevi hanno cercato di far fronte a queste difficoltà attraverso ad esempio la composizione di emoji. Quindi abbiamo, le faccio un esempio, nel set attualmente in vigore non c'è la parola per bottega. Certo. E quindi che cosa hanno fatto i traduttori? Hanno trovato un espediente, e cioè hanno composto due emoji, l'emoji della casa e l'emoji degli attrezzi. Le chiedo un'ultima cosa, Monti, l'idea però, l'obiettivo verso cui si sta andando non è quello di avere un simbolo emoji per ogni parola, cioè La domanda è questa: si potrebbe costruire un nuovo linguaggio espressivo, magari più sintetico, ma si va da quella parte lì, insomma? In prospettiva non penso che si possano usare gli emoji come si usa una lingua naturale, ad esempio come l'italiano. Certo. Sicuramente, appunto, ci saranno sempre più spinte a introdurre nuovi emoji che rappresentano sostanzialmente differenze culturali. Sì. Ad esempio, non so, una delle ultime proposte di inserimento di nuovi emoji riguarda l'introduzione di una figura femminile con il hijab, ad esempio, o l'introduzione di nuovi cibi, ad esempio. Quindi, diciamo, gli emoji sostanzialmente verranno aggiornati in base a quelle che sono nuove istanze di tipo culturale, ma anche di genere. Certo. Per un linguaggio, quindi, verso un linguaggio però internazionale, a questo punto. Sì, più inclusivo. Inclusivo. Sì, più inclusivo, esatto, che cerca quindi di rappresentare un po' tutti, diciamo, i paesi, quindi tutte le nazioni con le loro specificità culturali. Lo abbiamo già visto per esempio con il colore della pelle negli emoji, esatto, del, insomma, delle mani per esempio. Sì, esatto, oppure per quanto riguarda la parità di genere si stanno introducendo sempre nuovi emoji di professioni con però al femminile, no? Quindi con la rappresentazione di donne piuttosto che di uomini. Ioanna Monti, grazie, buona ricerca e ci sentiamo quando ci sarà un altro avanzamento, un dizionarione ancora più evoluto. Intanto buona serata. Ok, grazie, buona serata a voi. Non ci possono essere gli emoji per la radio, come si dice, abbiamo finito, no? Con un emoji in radio devi pronunciare la voce. Buona settimana a tutte e tutti.